Il problema del nucleare qui, la Maddalena, non è, come si dice, il problema della Maddalena, è il problema di tutta la Gallura almeno, che ha un grande indotto ambientale turistico, e per cui le preoccupazioni, insomma, come si può capire, sono grandi. Il fatto, che ci disturba di più non è forse la presenza dell'eventuale nucleare, è il fatto che tutta l'istituzione tende a arrampicarsi sugli specchi davanti alle cifre oppure si chiude a riccio. Cioè, noi vogliamo avere dei rapporti chiari con l'istituzione, tra l'altro il WWF deve poter lavorare con essa, altrimenti cosa facciamo? E i fatti sono questi, già da tempo è stato visto nelle acque della Maddalena qualcosa che non andava, nei fanghi verso Santo Stefano è stato colto un campione nel quale vi era del cobalto 60, sono state contraddizioni, ma alla fine insomma, si è visto che il cobalto c'era e poi si è parlato di cesio. Infine, con la scusa del muso rotto di un sommergibile nucleare e dell'eventuale leak o fuoriuscita, si è parlato della possibilità di uranio. Noi preoccupati abbiamo mandato dei campioni, il WWF dico, tramite gli amici corsi della società ABCDE, che semplicemente significa se vuoi amare l'ambiente lo devi conoscere, e su in Francia al CRIRAD, che è un istituto molto dotato, con un professore fisico nucleare riconosciuto internazionalmente, Bruno Chareron, ebbene hanno visto che da un lato non vi è stata alcuna esplosione nucleare violenta, insomma un piccolo Chernobyl sardo, però dall'altro il torio, che è un elemento della catena dell'uranio, è troppo alto, tanto alto da far impensierire. Ciò che avviene a livello nucleare è naturalmente, visto che si tratta, di materia militare, è protetto da segreto profondo. Già dal 1972, quando fu istituita questa base, che base non era ma semplice appoggio temporaneo, che poi pian piano è diventata una base, anzi oggi si parla di farla consolidare, di rinforzarla, di aumentare le volumetrie sull'isola di Santo Stefano. Ecco, già da allora c'erano delle problematiche perché nessun cittadino e anche la sottoistituzione poteva parlare con l'istituzione con la I maiuscola e non sappiamo niente. Naturalmente il signor prefetto, i sindaci, la USL dicono che tutto sotto controllo, le solite frasi che non ci piacciono sinceramente più. Noi abbiamo detto se tutto sotto controllo fateci vedere i dati però non escono fuori. Gli unici dati chiari appesi sui muri sono quelli del CRIRAD di cui io le ho detto poc'anzi. Il WWF sta facendo ciò che disperatamente ha fatto, però vittoriosamente devo sottolineare, anni fa quando abbiamo eliminato il grosso delle petroliere che passavano qui nello stretto di Bonifacio, petroliere, gassiere e chimichiere, cioè visto che il governo italiano risponde col sistema del muro di gomma e ci rimbalza contro tutte le nostre domande, non risponde, noi vogliamo andare dritti dritti, prima a Bruxelles, in fase politica diciamo introspettiva, e poi nel caso passare direttamente alla ratifica a Strasburgo, dove siamo già stati, cioè evitare per dir così l'Italia e far imporre all'Italia delle disposizioni. Questo è un luogo di pace, di turismo, vi è l'indotto, come ho detto all'inizio, più bello del mondo, si lavora in armonia e non vogliamo vedere dei sommergibili nucleari. Ammesso anche che noi sbagliamo, ammesso così, e purtroppo non è vero, che non esista alcunché, ma esistono questi cinque sommergibili che vanno, che vengono, che urtano, è già il secondo che si spacca il muso e noi non vogliamo avere queste visioni, ecco il concetto.